Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. L'argomento di oggi con l'Associazione Difesa Consumatori è un argomento caldo, è stato trattato più volte in questi giorni, lo abbiamo visto sulla stampa locale, ne ha parlato anche una trasmissione televisiva sulla 7, le cui troupe sono arrivate proprio a Mestre, lì dove ci sono problemi con una serie di multe ingiuste, a quanto pare, come sostiene ad esempio l'Associazione Difesa Consumatori. Carlo Garofolini, bentornato. Sì, ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, è un tema che anche noi in questo spazio avevamo trattato con te qualche tempo fa, è quello del Velocar Mestre, quello di alcuni semafori, alcuni agguati, così potremmo anche definirli, appunto, che vengono fatti in particolare per la viabilità di Mestre. Quindi parliamo di chi risiede in quella zona, ma anche di chi ci passa, perché insomma sono zone via Calabria, via Campalto, Ponte della Libertà, Viale Garibaldi, molto frequentate. Cosa succede? Certo, allora innanzitutto amico, noi esprimiamo la nostra soddisfazione perché ieri siamo riusciti ad andare su una trasmissione nazionale e portare il caso di Mestre, ma certamente siamo anche convinti che il caso di Mestre non è un caso isolato, ma un po' in tutte le città del Veneto e d'Italia si trovano un po' su questa giungla di apparecchiature tecnologiche di un tipo rispetto ad un altro, che hanno come unica finalità quella solamente di accanirsi contro l'utente. Un utente che è ignaro molte volte di quello che sono un po' il funzionamento di queste apparecchiature e che più delle volte si trova a rivolgersi all'Adico manifestando proprio le proprie ragioni, perché veramente capitano che ci sono delle contravvenzioni che sono alquanto incredibili e paradossali. Ecco, sono alcuni punti, no? Quelli che citavo prima, in cui ci sono strumentazioni e apparecchiature diverse. Sì, guarda, ti voglio raccontare un paio di casi che Mestre abbiamo come documentato nella trasmissione, che hai detto tu, e anche su quelle che è l'esperienza di alcune persone tra le centinaia che quest'anno si sono rivolte all'Adico. Per esempio, pensiamo al Velocard. Il Velocard è un'apparecchiatura presente sui semafori dove, quando scatta l'arancione, controlla che l'automobilista si ferma. Ma se l'automobilista si ferma e per caso supera di pochi centimetri la linea bianca di arresto, scatta una sanzione di 55 euro e la sottrazione di 2 punti dalla patente. Ci sono casi come a Campalto dove addirittura la linea era stata arretrata di molti metri rispetto al semaforo, che non induceva certamente gli automobilisti a fermarsi perché si trovavano 10-12 metri dall'incrocio, e ha coinvolto un'intera comunità di 30.000 abitanti con persone che hanno preso 12, 14, 16 sanzioni, e tra l'altro con una cartellonistica che sicuramente non era abbastanza chiara, perché non è pensabile che 30.000 persone si trovano su queste situazioni e possono essere considerati dei Rambo della strada. Poi ci sono altre apparecchiature come le ZTL, che sono apparecchiature dove controllano la limitazione del traffico possono passare i motorini e le biciclette. Ci sono le stesse apparecchiature che invece di chiamarsi ZTL si chiamano ZPS, di protezione speciale, dove per esempio anche le biciclette e i motorini vengono rilevati e contravvenzionati. E dopo ci sono i famosi autovelox, dove un ponte della libertà lungo 10 km hanno ridotto il limite da 90 a 40 km orari, perché dalla parte opposta stanno facendo dei lavori e di giorno c'è una corsia che non è interessata a questa attività, e di notte, che l'attività non c'è, continua a esserci limite di 40-50 km orari, e anche qua addirittura 30.000 persone sono state rilevate alla pazzesca velocità di 60-65 km orari, con conseguenza ritiri dei punti della patente e con sanzioni che variano da un minimo di 155 euro. Ovviamente usi dei toni sarcastici, perché chiaramente certe velocità sono in sé piuttosto lente, poi lì dove appunto un cantiere come quello del tram sul Ponte della Libertà, quando è operativo c'è una ragione, ma quando non è operativo, voi dite, questo limite potrebbe essere tolto, o in ogni caso è un sistema che il comune ha adottato per fare cassa, voi dite anche questo. Allora, il Comune di Venezia, come qualsiasi altro comune, stanno utilizzando le tecnologie solo per fare cassa. La tecnologia avrebbe un significato se il significato è quello di fare prevenzione, ma contravvenire in questa maniera e in modi diversi, come sta facendo il Comune di Venezia e come sicuramente stanno facendo molti altri comuni, ha solo l'unico scopo, quello di rovinare le famiglie, perché non è pensabile che studenti, lavoratori vengano con noi, da noi addirittura con 36 multe, e addirittura c'è la complicità dei prefetti e dei giudici a non accogliere i ricorsi e addirittura farli pagare doppi, e comuni, malgrado quelle che sono state delle rassicurazioni di voler risolvere certe problematiche, invece scopriamo che poi in sede di dibattito presentano delle osservazioni per contestare quelli che sono un po' anche i motivi per cui certi automobilisti hanno fatto ricorso. Noi all'Adico, per esempio, quest'anno abbiamo fatto circa 400 ricorsi, e fai conto che mediamente ciascuno aveva 12, 14, 15 sanzioni ciascuno. Abbiamo anche medici di base o dottori o lavoratori che gli avevano semplicemente scaduto, gli era semplicemente scaduto un permesso, e il comune, anziché mandare un avviso che il permesso ti era scaduto, ha pensato di tacere e mandarti le notifiche. Poi uno perde anche il ricorso, non ha neanche la possibilità di rateizzare, perché assistiamo a battute di certi comandanti che dicono chi sbaglia paga, ma qua ripeto, c'è gente onesta che utilizza il mezzo, lo strumento per spostarsi solamente per andare a lavorare, accudire gli anziani, i bambini, hanno superato il limite di pochi chilometri orari o le linee bianche di pochi centimetri, e anche di fronte a quelle che sono delle prove compiute in cui c'è l'ammissione del comune di aver fatto confusione sulla cartellonistica e aver tratto in inganno i consumatori, l'unica scusa che hanno, sappiamo benissimo, che è quella non di fare prevenzione ma di fare cassa. Oggi sappiamo che se prima l'inasprimento di queste sanzioni era determinato da una necessità di dover introitare perché non c'era l'ICI, oggi ci troviamo a subire sia l'IMU che queste contravvenzioni, e sono delle contravvenzioni che, come ti ho detto, stanno portando e hanno portato alla rovina veramente un sacco di famiglie. Insomma, situazione che poi è documentabile, se andate sul sito della 7 nella trasmissione L'aria che tira vedrete anche documentati questi posti, quindi consigliamo prudenza quando arrivate a Mestre, magari alzate il piede e guardate dove ci sono queste apparecchiature, anche se a quanto pare la cartellonistica e gli avvisi ci sono, ma potrebbero essere migliori. Per oggi ci fermiamo qui, hai accennato all'ICI o IMU come si chiama oggi, magari tra un paio di giorni parliamo di quella. Grazie Carlo, buon proseguimento. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.